peanuts, all peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz e oggi ascolteremo alcuni dischi, insomma sono musicisti naturalmente che hanno prodotto delle novità e che sono state ritenute anche tra le cose più interessanti insomma usciti nell'ultimo periodo. Il primo del quale ascolteremo un paio di composizioni, l'ultimo lavoro di Eric Revis. Eric Revis è un contrabbassista, bravo anche come contrabbassista, ma soprattutto interessante anche come compositore. Ha già una sua storia di pubblicazioni discografiche, non lunghissima perché è piuttosto giovane, sicuramente scrivibile tra le file dei giovani talenti degli ultimi anni, e è uscito con l'ultimo lavoro e con una formazione interessante. Spesso ormai è importante vedere la timbrica dei gruppi e quindi che compongono la formazione e poi anche le personalità dei musicisti che la compongono. Infatti in questo caso, come anche nei precedenti di Eric Revis, non ha un gruppo fisso, lui è spesso un sideman piuttosto richiesto, ma diciamo che individua una formazione a seconda del progetto che intende portare a compimento. E in questo caso viene accompagnato dal pianoforte di Chris Davis, che ormai è sempre molto presente diciamo nell'ambito di quelle che sono le proposte più interessanti. È uno dei talenti pianistici più importanti di questi ultimi tempi. Poi due sax, un sax contralto che è Darius Jones, che personalmente non riscuote certo la mia simpatia, però è un musicista che esce da esperienze di un free estremo, quasi ostentatamente estremo. Ha un suono piuttosto calante, vuole caratterizzarsi anche con una sorta di stonatura quasi voluta, che ricorda vagamente Jackie McLean, questo suono calante, però direi che in questo caso Darius Jones eccede altro che McLean. Però insomma sempre più spesso alterna situazioni diciamo più tradizionali, lui è soprattutto un sideman, poi ha fatto anche alcuni lavori con la propria formazione, ma soprattutto un sideman, a seconda del contesto si modifica anche il proprio linguaggio. E poi un altro sassofonista, Bill McHenry, che non è più giovanissimo, diciamo che ha un'esperienza ormai trentennale più o meno sulle scene, ed ha avuto collaborazioni con moltissimi musicisti dell'area newyorkese, soprattutto lui lavora appunto nell'area newyorkese. I musicisti sono per esempio i Bad Plus, anche singolarmente Ray Anderson, oppure anche Ivy Anderson, e poi anche Guglielmo Klein, un musicista col quale ha collaborato spesso, e a me appunto piace, cioè ha sempre interessato questo pianista, e McHenry ha partecipato a moltissimi dei lavori di Guglielmo Klein. Poi Chad Taylor alla batteria e un'altra batteria che è quella di Justin Faulkner, quindi una doppia batteria, una sonorità particolare, molto ritmica, molto propulsiva. Ascoltiamo due brani che sono naturalmente entrambi composti da Eric Revis. Il titolo del disco è Sleep Sleep Notes Through a Looking Glass, ed è uscito per la Pyroclastic Record, etichetta appunto del Chris Davis, la pianista che partecipa anche al gruppo. Questo era il gruppo di Eric Revis, nell'ultimo lavoro uscito, che è sicuramente un lavoro interessante, uno dei più interessanti di quest'anno. E un altro musicista, secondo me, è decisamente importante quest'anno per i lavori che ha fatto, per le collaborazioni che ha avuto, anche per le proprie proposte come leader, è una chitarrista che ormai ha una lunga esperienza alle spalle. Si tratta di Nels Klein, un musicista californiano, dell'area californiana, che poi ormai ha ben pensato di muoversi anche sul territorio newyorkese. Quest'anno sono usciti diversi lavori con la sua presenza. Un progetto al quale ha partecipato come co-leader, diciamo, è un gruppo chiamato The Good Life, che è uscito con un secondo lavoro, mi sembra che ne fosse uscito uno precedentemente, ma insomma quest'anno dovrebbe essere il secondo lavoro, intitolato The Animals Took Over. È un disco con un'etichetta praticamente autoprodotta, dove vengono reinterpretate una formazione di musicisti certamente di ottima levatura, tipo John Dietrich, oppure anche Trevor Dunn al contrabbasso. John Dietrich è sempre un chitarrista, e quindi Trevor Dunn al contrabbasso o basso elettrico prevalentemente, Scott Amendola alle percussioni, Scott Amendola che è sicuramente un musicista molto, come dire, dal tocco ben riconoscibile, piuttosto aggressivo, diciamo, e Ben Goldberg al clarinetto. Il risultato, cioè, sono reinterpretazioni di classici della storia del jazz, soprattutto della storia del jazz legata al free jazz e a quelle che sono state le esperienze dagli anni 60 in poi. Ascoltiamo un brano solo. È un disco che ha dei momenti luminosi e degli altri decisamente meno, però alcuni, secondo me, quelli luminosi sono di altissimo livello. Qui lo ascoltiamo in una delle composizioni più famose di Jimmy Jaffery, una composizione che ebbe modo di eseguire anche per clarinetto solo o accompagnato da Jim Hall, ed è Cry Want. Ascoltiamo proprio il duo di Ben Goldberg con Nels Klein, di grande intensità e proprio anche di grande evocazione, perché è riconoscibile. Anzi, direi che Ben Goldberg cerca di copiare anche la timbrica e il fraseggio di Jimmy Jaffery. Thank you. quel progetto che aveva detto di fare. Vabbè. Questo era Cry Want, una composizione di Jimmy Jaffery con una magnifica interpretazione di Ben Goldberg col clarinetto, poi accompagnato da Neis Klein alla chitarra e anche John Dietrich, poi alla percussione Scott Amendola e Trevor Dunn al basso elettrico. Continuando a parlare di Neis Klein, è uscito per l'etichetta Blue Note, ormai da qualche tempo incide per la Blue Note, Neis Klein, è uscito l'ultimo lavoro dei Singers, che è un gruppo, direi che tutte le volte poi si modifica, però appunto la formula con la quale esce in una formazione allargata e con la sua leadership. È uscito l'ultimo titolo, appunto, è Share the Wolf. È una forma, anche in questo caso è opportuno analizzare la timbrica del gruppo, quindi la formazione. E troviamo un sassofonista, Skerrick, che è un sassofonista sicuramente poco conosciuto, ma lo si incontra in qualche occasione come sideman. Io non credo di aver mai visto un lavoro come leader, però ha sempre dimostrato una grande musicalità, una ottima capacità di sviluppo dei temi che gli vengono affidati. Poi le percussioni sono quelle precedenti che abbiamo ascoltato, Trevor Dunn al basso, al contrabbasso in questo caso, e Scott Amendola alla batteria. Si aggiungono anche Brian Marsella al pianoforte. Brian Marsella è un pianista che è stato forse per troppo tempo legato alla Zadig, l'etichetta di John Zorn, e per questa etichetta ha pubblicato un paio di lavori. È sicuramente un pianista con grande talento. Abbiamo ascoltato a Saalfelden dal vivo e ha dato una prova veramente notevole delle sue qualità, delle sue capacità pianistiche. Quindi ben venga appunto finalmente un'uscita da questa specie di gabbia che là finora gli ha dato poche occasioni di cimentarsi nei confronti con altri musicisti. Poi un altro percussionista che esce appunto dalle fila della Zadig è Ciro Battista. Quindi è una timbrica sicuramente legata anche alle percussioni, una forza percussiva robusta e anche appunto al sax, chitarra e pianoforte, che diventa un classico. Ascoltiamo diversi brani presi da questo disco perché credo che veramente sia un lavoro molto interessante. Thank you. Thank you. Direi che abbiamo ascoltato un estratto piuttosto ricco dell'ultimo lavoro di Neis Klein con i suoi Singers, il disco intitolato Share the Wealth, ed è sicuramente un lavoro ben riuscito. Abbiamo ascoltato sia il brano iniziale che quello conclusivo, questa ballad malinconica che conclude anche questo bellissimo lavoro. Era anche l'ultimo ascolto per oggi. Vi ricordo che l'intera trasmissione, anche le indicazioni discografiche, le potete trovare nel nostro sito Radio Città Fujiko, alla sezione Musica Playlist. Salve a tutti e alla prossima. Sol peanuts. Jazz on megahertz. Sol peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Thank you.